sono le ore 21 qui da Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza. E per chi vuole usare il web www.ondarossa.info si clicca in diretta e compaiono tutte le trasmissioni, tutte le, i dibattiti, tutta la musica di Radio Onda Rossa. Sul sito si possono trovare anche le modalità di adesione per quanto riguarda la nostra necessità di autofinanziamento. Importante dunque sono le sottoscrizioni di chi aderisce, di chi ascolta, di chi sostiene questa radio e le iniziative che si fanno di tanto in tanto nei centri sociali. Se n'è tenuta una lo scorso venerdì con Ambassador 21, una selezione, un DJ set del sottoscritto in Noctibus Panis. Venerdì prossimo invece ci sarà un altro appuntamento al Forte Prenestino. Si parlerà del DAB come mezzo di digitale di comunicazione con un altro gioco di parole. Si esibirà anche Paolo Baldini DAB Files meets Mellow Mood, quindi per gli appassionati del DAB Forte Prenestino sottoscrizione di Radio Onda Rossa venerdì prossimo. I consueti rapidi saluti Alberto Cripper di MD NBA. Abbiamo Anna qui a Roma, Doriana Panico a Taranto, Tabula Rasa a Cortina d'Ampezzo, un saluto a Lucia Cagliazza di Lupsi. Presto ci ascolteremo al suo ultimo lavoro. Abbiamo Ernesto Panico Brusati di Panico de Palcoscenico, Francesco a Bergamo, Cecilia Miradoli del progetto Pindar, Margherita Montoneri, Venusia Zozzetta Stramonio Fedelissima, Barbara Caridi, Tiziano Zeno Farinacci di Pigreco. Un saluto al maestro Gianluca Becuzzi, Marco Mascia di Progetto Sonoro, Daniele Ciullini, una istituzione della musica industrial. Allora noi riprendiamo il discorso riguardante Dario Argento, questa compilation ideata naturalmente da Raffaele Pezzella attraverso Late Tower Records. Deep Red, tribute to the cinema of Dario Argento, quindi tanti artisti si sono prestati con la loro arte a omaggiare questo artista, questo regista, che ovviamente non ha bisogno di presentazioni. Daniel Ferreira in Arte Club ci farà sentire Murder Designer. Mentre dall'Italia successivamente un quartetto, Dario Arrighi, Cristiano Bocci, Sara Fontana e Mara Lepore, con una traccia dal nome Key to Fear. Voleva partire, ma adesso va. Club Murder Designer. belli questi ulteriori passaggi di Club e di questo quartetto magico: Sara Fontana, Dario Righi, Cristiano Bocci e Mara Lepore. Un retrogusto prog arricchisce entrambe le tracce, d'altronde l'anima dei Goblin direi che aleggia in molti frangenti di questo lavoro, di questo Deep Red compilation dedicata a Dario Argento. Belle queste ultime dissonanze effettivamente in questa Key to Fear. Sentite Michael Bonaventure che tratta Profondo Rosso. E allora ci siamo goduti in queste settimane questa bella compilation della stampata sulla 8 Tower Records di Raffaele Pezzella, che vado a salutare, come vado a salutare Stefano Di Serio Like a Wake qui a Roma al pari di Mariano, Margherita Montoneri. E allora andiamo a New York, andiamo negli Stati Uniti, andiamo dagli Swans, andiamo da In the Beggar, ultima fatica come al solito bellissima per quanto riguarda Michael Gira e i suoi Swans. Album che si sviluppa in due volumi, noi già la scorsa settimana abbiamo cominciato a sentirci il secondo CD, caratterizzato soprattutto da una lunghissima traccia di 43 minuti che porta il nome di The Beggar Lover Tree. Oggi ce ne ascoltiamo un altro estratto, circa 10 minuti appunto, per gli Swans. We'll be right back. come promesso, ben 10 minuti di The Beggars. Soprattutto da The Beggar Love Tree, un lungo brano di ben 43 minuti. Questo, diciamo, era il secondo assaggio e altre due ce ne faremo le prossime settimane. Avrete apprezzato il pathos che emana questa traccia, degli splendidi cambi di ritmo e di atmosfere. Per un artista, Michael Gira, i suoi Swans, una quarantennale splendida carriera, divisa in più fasi, ma sicuramente tutte ultra dignitose. E gli Swans vedo e lo noto con piacere che piacciono praticamente a tutti quelli all'ascolto fino ad ora. Sentite qui, e questo ce lo ascolteremo la prossima settimana, altri minimo 10 minuti. E di promessa in promessa, un'altra che avevo lanciato nelle scorse settimane, è l'ultimo album per Gianluca Becuzzi, al quale farà piacere essere successivo proprio agli Swans. Manteniamo dunque grossi livelli. Black Mantra, ultima fatica, uscita nel giugno di quest'anno, album che, come recita il titolo, effettivamente mantrico tribale, oltre a naturalmente dei passaggi doom metal che spesso sono presenti nelle ultime produzioni per questo artista toscano. Il tutto si apre con The Hidden Temple. un 2023 particolarmente positivo dal punto di vista musicale per la Gianluca Becuzzi. E questo era Black Mantra, uscito quest'estate, che conferma l'eccezionale ispirazione di Becuzzi. Mantrico, tribale, esoterico. Eccelsa anche la qualità dei campionamenti, dei suoni, anche con la partecipazione di Antonio Tognetti nel secondo CD. Un bel digipack con dei cespugli in confusione. Chissà perché la scelta di questa copertina. Gianluca ci sta ascoltando, se vuole magari ciò può anche spiegare, ma la cosa importante è che questo album stimola i sensi e il viaggio mentale. Buonasera, sarà K.O. Fontana, Cristiano Bocci, Noise Cluster con Flavio ed Arianna. Il buon Nicola Locci, sempre presente. Album tra i migliori del 2023, devo dire che ci ascolteremo praticamente per la sua interezza, quindi Becuzzi ormai è onnipresente nelle nostre selezioni del mercoledì sera e credo che piaccia ai più. Sempre Italia, ma andiamo al nord, andiamo in Veneto, andiamo a Marghera con Alessandro Ragazzo, altro talento italico per quanto riguarda il settore della sperimentazione, e anche lui ha stampato un nuovo lavoro dal nome Industrial Setting for Mechanical Starling Groups, due tracce di 15 minuti, un po' di Fields Recording, un po' di anche qui di viaggi mentali interiori e droni industriali. E allora ci ascoltiamo la prima parte del primo brano, che occupa un ideale lato A. se l'arte di Gianluca Becuzzi anche in questa circostanza la possiamo anche definire con ispirazione sciamanica. Qui i rumori sono più metropolitani ed appartengono ad Alessandro Ragazzo, Industrial Setting for Mechanical Starling Groups, la prima traccia divisa in due parti, il primo assaggio di 8 minuti. Per quanto riguarda proprio il Becuzzi, ci ha dato proprio la spiegazione, diciamo da me richiesta, l'artwork di Stefano Gentile, e quindi è lui che ha scelto un'immagine naturalistica per restare, diciamo, fedeli alla serie, e nonostante che nessuno di loro sia stato in India, ci voleva qualcosa di universale, tra virgolette, e l'erba alta lo è. Questo ci dice Gianluca Becuzzi, che ringraziamo. Saluto Melania in quel di Varese. Andiamo avanti, lo abbiamo salutato all'inizio, ci sta ascoltando Ernesto Panico Brusati, e quindi continuiamo con artisti italiani. Lui lo abbiamo assaggiato, passatemi il termine, in passato con la sua arte attraverso Panico da palcoscenico, e questa sera ci andiamo ad ascoltare una nuova composizione. Ci ascoltiamo Non si esibizia un loppide, Panico da palcoscenico. Thank you.